Innanzitutto l'andamento generale, a Bologna uno su due dei campionatori che abbiamo inserito hanno dato valori che sono quelli che noi nel 2017 avrebbero dato, insomma, valori superiori al limite di legge. Noi abbiamo provato a dividere per una solidità maggiore i dati in fasce e devo dire che i campionatori in una fascia di sicurezza, cioè come i Giardini Margherita o migliori, sono una percentuale molto ridotta, intorno al 14%, 30% a valori simili o peggiori dei Giardini Margherita. E questo è un dato, diciamo, significativo rispetto alla qualità dell'area che andiamo a vivere. Se analizziamo le strade trafficate, perché poi abbiamo fatto un focus sulle tipologie di campionatori, vediamo che il problema aumenta moltissimo. Quelli che hanno valori simili o peggiori di Porta San Felice sono circa il 45%, e mentre quelli simili o migliori ai Giardini Margherita sono il 6%. Quindi chiunque di noi attraversi una strada trafficata, nell'oltre il 90% dei traffici, dei casi, sta respirando un'aria ad alta concentrazione di NO2 e superiore ai limiti di legge. Questo è un po' il problema che abbiamo. È interessante notare sia quello che accade nei parchi e anche quello che accade nei centri commerciali. I parchi, che noi ci aspetteremmo tutti verdi, tutti come i Giardini Margherita, in realtà danno anche valori simili in diversi casi a Piazza di Porta San Felice. Nelle zone vicino al passante, alla tangenziale sostanzialmente attuale, nelle zone delle periferie più trafficate, San Donato, quindi Cirenaica, Navigli, e nelle zone di via Saffi, dove per esempio il CSB è una delle zone ad alte concentrazioni di NO2. Significa che le persone che vivono in quei luoghi non solo vivono ad alte concentrazioni di NO2 quando attraversano una strada trafficata, ma sono esposti ad alte concentrazioni quando camminano da casa alla scuola, da casa a un supermercato, attraverso strade secondarie, e persino quando vanno a giocare o a fare una passeggiata o a sedersi su una panchina in un parco. Questo significa un'esposizione elevata per tante ore del giorno ad alte concentrazioni e quindi un problema epidemiologico significativo in termini di salute. L'ultima cosa, sui centri commerciali, c'è da dire che non ci sono centri commerciali che hanno luoghi nei centri commerciali che hanno dato valori simili o minori dei Giardini Margherita. Sono solo nella fascia o centrale di attenzione o vicino ai limiti di legge, oppure nella zona alta, quindi preoccupante, che è simile a Piazza di Porta San Felice. Questo significa che anche in quel caso stiamo avendo a che fare con dei luoghi che hanno concentrazioni di NO2 elevate, che quindi espongono ad alte concentrazioni. Lì vale una doppia esposizione, perché hanno un'elevata esposizione quando uno attraversa un parcheggio e va a comprare a fare la spesa nel centro commerciale, ma generano anche forte esposizione quando la maggior parte delle persone raggiunge il centro commerciale con le auto e quindi inquina anche le strade secondarie e le strade trafficate che attraversa. Tornando sui punti critici, voi avete fatto un focus anche su alcune scuole, ce ne sono una decina che sui grafici sono segnate in rosso, quindi vuol dire cattiva aria, aria pesante. Sì, sulle scuole in realtà non abbiamo fatto un focus specifico nel momento del posizionamento dei campionatori. Sono i cittadini che le hanno messe in quelle zone, anche nelle vicinanze, quindi sicuramente non si può trarre un dato omogeneo, ma questa cosa ci dà un po' di preoccupazione, perché effettivamente ci sono molte scuole, una decina come diceva lei, che hanno concentrazioni di NO2 elevate. Ci piacerebbe andare avanti su questa analisi, perché secondo noi l'esposizione che un bambino può avere quando cammina, gioca nell'intorno della scuola o vive a scuola deve essere un punto di attenzione. Quindi vorremmo a questo punto forse proporre un focus sin dall'inizio su queste cose, come hanno già fatto in altre città, per esempio i cittadini per l'area di Milano. Adesso ci sarà un'assemblea nella quale esporrete i dati, poi come vi muoverete? Diciamo che questo era il passo preliminare su Bologna. Sì, noi abbiamo fatto un estratto, quello che abbiamo presentato oggi, un estratto dei dati e la mappa che li contiene tutti. Poi diciamo vorremmo fare il report completo, che prevede l'analisi dei cortili, l'analisi dei parcheggi, delle strade principali oltre che quelle trafficate, insomma aggiungere dei dati e permettere a chi ha partecipato al percorso di trarre le proprie conclusioni, di fare anche proposte all'amministrazione comunale o ai soggetti con cui collaboriamo. Quindi a noi interessa portare la discussione nel merito in città, far fare all'amministrazione scelte oculate e continuare a lavorare, per esempio come abbiamo fatto con ARPA, per riuscire ad approfondire dove ci sono dei luoghi problematici o anche approfondire i dati sul piano del punto di vista della modellazione statistica, e quindi continuare a fornire alla città gli strumenti per riprogettarsi in maniera più sostenibile.